Un tempo, tanti anni fa, casino era se non proprio una parolaccia, un termine che era meglio non usare in società. Un'espressione che a nessun patto poteva fiorire sulle labbra dei giovani maleducati e delle giovinette da bene, e neanche aggiungendoci un convincenza parlando. Lo si usava quando lo si usava per ostentare o sottolineare davanti agli altri una certa spregiudicatezza ideologica o personale, ma era un'operazione che si compiva a proprio rischio e pericolo, nel senso che gli interlocutori potevano aversene a male, o fingere di aversene a male, faceva lo stesso, e tagliarti fuori dal loro universo dialogico, il che normalmente non è un grosso rischio, ma se quegli interlocutori hanno una certa quale autorevolezza sul piano sociale ed economico può comportare delle conseguenze sgradevoli. E si evitava con gran cura di pronunciare quella parola, naturalmente, quando si voleva esprimere rispetto o riverenza verso coloro a cui ci si rivolgeva. Eppure, etimologicamente parlando, si trattava e si tratta della più innocua delle parole. È un normalissimo diminutivo scusatemi, mi stavo dicendo che etimologicamente parlando si trattava della più innocua delle parole, è un normalissimo diminutivo di casa, utilizzato al maschile per indicare un piccolo edificio, una costruzione di modeste dimensioni, ma il problema naturalmente è quello di cosa si va a fare in una struttura edilizia del genere. Nella letteratura del XVIII secolo il casino, talvolta lo si chiamava il casinetto, era una costruzione collocata in un parco, in un giardino, e veniva frequentata in genere a scopo di svago. Niente di male, ma c'è svago e svago. Ci si poteva andare ad ascoltare una serenata di Mozart, se si era di alto sentire, o si poteva fare come Don Giovanni, che secondo l'abate da Ponte cercava di attirarvi con le più disdicevoli delle intenzioni, Zerlina prima e la cameriera di Donna Elvira poi. E visto che di Don Giovanni notoriamente ce n'è solo uno, ma di intenzioni disdicevoli siamo provvisti più o meno tutti, il termine, com'è come non, è finito con l'assumere, almeno nell'uso settentrionale, il significato di luogo d'abiezione. Fino a un mezzo secolo fa, per gli italiani del nord, del nord-ovest all'ingrosso, un casino in buona sostanza era quello che in lingua corretta si sarebbe dovuto definire un postribolo o un lupanare. È un'istituzione, cioè, che pur essendo largamente diffusa sul territorio e regolamentata da apposite leggi, non era il caso di menzionare in pubblico. Poi si sa, tutto cambia. Le consuetudini sociali si evolvono, le leggi e le istituzioni si adeguano a questa evoluzione, i significati delle parole anche. Siccome in quei luoghi, a quanto si dice, era piuttosto difficile che i frequentatori tenessero un comportamento austero e contegnoso, il termine è passato poco per volta a indicare semplicemente uno stato di confusione o di trambusto. E visto che nella confusione e nel trambusto non è mai facile realizzare i propri obiettivi, è invalso anche l'uso di indicare con quell'espressione un proposito di difficile praticabilità. E come si fa a combinare qualcosa con tutto questo casino, ci si chiede l'un l'altro, senza voler alludere affatto al mercimonio sessuale, ma per significare soltanto che tutt'attorno si fa un gran chiasso, c'è molto disordine. E sì, può capitare di sentirsi rispondere, è davvero un casino. Certo, espressioni di questo genere hanno implicita una certa dose di ambivalenza, per cui si può sempre trovare chi ti dice di qualcosa che gli piace un casino, ma questa, in ultima analisi, significa soltanto incasinare una situazione che dal punto di vista semantico è già abbastanza incasinata. È tutto un problema, appunto, di svitamenti semantici, di semiologia, e ci balocchiamo da sempre con le stesse poche parole, ma con un'inesausta attività di categorizzazione e ricategorizzazione, ne modifichiamo continuamente il significato e l'ambito d'uso, trasferendo con indifferenza lo stesso significante dalla Suburra all'Accademia e dall'Accademia di nuovo alla Suburra, e di solito ci rendiamo conto del fenomeno soltanto quando ormai è acquisito, soltanto quando ormai è dato. Io ricordo ancora lo stupore che provai verso la metà degli anni 70 quando un vecchio seriosissimo preside, con il quale ero in polemica praticamente su tutto e che consideravo culturalmente parlando poco più che un levito del Mesozoico, mi chiese di punto in bianco se non pensassi anch'io che gli studenti esagerassero in quella tal circostanza nel fare tutto quel casino. Non ricordo cosa gli risposi, ma probabilmente pensai che non ci si poteva fidare più di nessuno. E se quel venerabile fossile poteva parlare a sproderaggio di casini con un interlocutore cui non lo legava nessuna complicità particolare, e voleva dire che i tempi erano davvero cambiati e il vocabolario con loro. Eppure forse la situazione è un pochino più complessa, e non si spiegherebbe se no il disagio che impercettibilmente mi ha preso, e suppongo abbia preso anche voi, di fronte a quelle affiche pubblicitarie che annunciano dalla fiancata di tutti i mezzi pubblici che la casa non è più un casino. Nel senso, suppongo che chiunque, rivolgendosi all'indirizzo elettronico ivi reclamizzato, dovrebbe scoprire che trovare casa ormai è la cosa più semplice del mondo. Non soltanto perché non ci credo, e anzi sono convinto che con i prezzi che ballano trovare una casa sia più che mai un casino, ma perché mi sembra che alla fin fine quello slogan ci riporti indietro nel tempo. Chi lo ha creato evidentemente puntava, oltre che sul falso diminutivo, che come gioco di parole non è un granché, sul facile effetto di scandalo legato a quel tanto o a quel poco di sconveniente che l'espressione conserva. E forse a scandalizzarmi sono stato soltanto io che detesto la pubblicità allusiva, la prossima volta ricordatevi di parlarmi di quella del succo di mela yoga. Ma il problema naturalmente non è questo. Il problema è che le parole, nel loro peregrinare da un significato all'altro, si portano sempre dietro, come a livello residuale, e qualcosa di quello che si lasciano indietro. Lo slittamento non è mai radicale, ha sempre una sua dimensione diacronica, e come chi va al mulino comunque si infarina, chi parla di casini finisce sempre con l'incasinarsi. Nell'attesa di affrontare il problema a un livello teorico adeguato, mi piacerebbe proprio ritrovare quel vecchio preside e chiedergli che cosa ne pensa. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz, ajá, y cambiar el gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo yo.